Ciao a tutti, mi piacerebbe avere un vocoder alla voce per questa trasmissione, per questa puntata, ma non ce l'abbiamo e dunque lo emulo. Questa puntata è tutta su l'elettronica, un po' dance, un po' parecchio dance e un po' techno, un po' acida, per cui metto subito un primo pezzo che è anche un po' EBM del 92 di un gruppo che è belga. Ci saranno vari gruppi belga questa sera, ma anche inglesi, e intanto lo metto. Loro si chiamano Vomito Negro. Wake up and smell the 90, perché stasera è tutta roba un po' anni 90. smell the night. Wake up and smell the night. Wake up and smell the night. Wake up and smell the night. Wake up and smell the night. Wake up and smell the night. Wake up and smell the night. I just wanna smash your face in. I just wanna smash your face in. I just wanna smash your face in. I just wanna smash your face in. Wake up and smell the 90s. Vomito Negro con Wake Up Smell the 90 o 90s, che è anche un po' il titolo della puntata di stasera. Sono tornato con la voce normale, ecco. E, appunto, è tutta basata sugli anni 90, su un certo tipo di dance e tutte le varie sfaccettature che hanno compreso vari generi, anche come si sentirà anche qualcosa di metal, volendo, proprio con questi suoni che oggi ci sembrano datati, ma svegliatevi, perché l'odore dei 90, della musica del 90, è comunque un odore molto molto interessante, se non gradevole. E il pezzo che vi volevo mettere in realtà è da tanto che ce l'avevo in testa, è molto molto conosciuto. Però tanti sanno anche poco di questo gruppo o progetto, che si chiamano KLF. La sigla è Copyright Liberation Front. Erano un gruppo inglese Copyright Liberation Front perché? Che è un nome interessantissimo, perché come primissima formazione loro si chiamavano The Justified Ancient of Mumu, che tra l'altro è ispirato alla trilogia degli Illuminati di due scrittori, Robert Anton Wilson e Robert Shea. Il primo disco rubava veramente campionamenti da un sacco di gruppi rock o dance famosi come gli ABBA, le Zeppelin, insomma tutta gentaccia, sì. E ovviamente ebbero grandissimi problemi, soprattutto con la traccia Dancing Queen proprio degli ABBA, e vennero ritirate dal mercato tutte le copie non vendute dell'album. E dopo quindi fecero un progetto nuovo che si chiamava The Time Lords, sempre rimanendo sugli Illuminati, insomma, che si chiamava Who Killed the Gems, tra l'altro, e andarono avanti e con l'ultima nome di facciata che avevano, proprio KLF, loro hanno fatto le cose più famose. Tra l'altro, appunto, il pezzo che sentirete sicuramente lo conoscete, era uno della trilogia che venne ribattezzata Stadium House, cioè proprio la house da stadio, super mega pompata. E la trilogia era What Time Is Love, 3 AM Eternal e Last Train to Transcentral, che è proprio il pezzo che vi farò ascoltare. KLF. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Mumu. Furthermore known as the Jams. We'll be right back. KLF, questa è 8 Hertz ovviamente su Radio Wombat. Andiamo avanti, vi metto un brano dei Fini Tribe, che sono un gruppo, che erano un gruppo di Edimburgo, che ha iniziato facendo post-punk, capitanati da Chris Connelly, che poi se ne andò, che è un bravissimo cantautore tra l'altro, poi se ne andò per avere le sue, a soddisfare le sue voglie con i Revolting Cox e i grandissimi ministri. Post-punk perché? Perché comunque tanti gruppi che si sono messi a fare elettronica, che conoscete gli anni 90, in realtà venivano da ambienti abbastanza rivoltosi, così come era rivoltoso un po' tutto il discorso della rave degli anni 90, che appunto comprendeva il Nord Europa e l'Inghilterra. Ma basta, Fini Tribe, Live Monster. Tra l'altro questi due pezzi che vi metto li ho trovati in una compilation che c'è in CD, che c'era, non esiste mai più, proprio mai più, che si chiama Convulsion numero 4, che era una compilation allegata alle varie fanzine cartacee che uscivano, che si chiama Convulsion Magazine. Questo è del 94, c'è tanta roba bella come questa e quella che ascolterete dopo, Fini Tribe, Live Monster. We'll be right back. appunto in Convulsion, il quarto Convulsion che era della fanzine, c'era anche questo gruppo che si chiamano Pitch Shifter, proprio come il pedalino pitch shifter per chitarra, basso, altri strumenti che alza e abbassa il pitch, cioè l'altezza del timbro proprio, quindi da fai a seconda di come lo regoli. E i Pitch Shifter erano nati proprio quasi come gruppo plagio dei Godflesh, proprio chiedevano quale batteria usassero i Godflesh elettronica, tutto quanto, quindi erano molto simili nell'89 quando iniziarono, e poi sono diventati sempre un pochino più metallaroidi, coi riffoni e con uno spazio sempre più grosso all'elettronica, fino ad arrivare già ogni qualvolta che cambiava un po' la tendenza ritmica, o venivano scoperte generi nuovi all'interno dell'elettronica, come la drum and bass per esempio. Ecco, loro facevano il disco con ritmiche drum and bass. Però sono molto interessanti e tanti pezzi colpiscono, insomma, hanno una neuronalità particolare, proprio come questo che si chiama Tried, e è proprio un mix per la fanzine Convulsion Magazine, quindi si trova solo lì. E era un pezzo loro abbastanza conosciuto, e adesso se ce l'ascoltiamo, loro sono i Pitch Shifter. Bye. Vi prometto che metto solo un altro pezzo un po' tamarroide e poi la faccio finita. Un po' tamarroide dal punto di vista del metal, infatti vorrei mettermi di un gruppo che si chiamano Bile, come si descrivevano loro, demonic electronic, erano un po' molto provocatori, anzi senza un po', mi ricordo che i video del primo disco erano quei passamontagna un po' terroristi del suono. Loro appunto newyorkesi di Long Island, quindi l'unico gruppo che metto stasera americano, hanno performato in pochi anni, dal 93 al 95, con dai due agli 11 elementi sul palco, e appunto anche un po' vi ricorderà qualcosa di Marilyn Manson, ma insomma non fateci troppo la bocca. E il pezzo è tratto da un disco che è corto, ma il pezzo è lungo, si chiama l'album Biledegradable, ecco, del 97. E tra il suonato e l'elettronico i Bile si facevano strada con questi live pazzeschi a suon di mangiafuoco e dominatrici sul palco, per cui insomma una cosa un pochino più, volendo, un po' pacchiana ma anche efficiente. Non so come mai, ma mi piaceva che in contesto anni 90 fossero ricordati anche loro con le loro follie. Buon ascolto, ci sentiamo dopo. 8 Hz Radio Wombat, ovviamente, tante volte siete entrati per caso. incredibile, The Phantom God, che bomba di pezzo. Ok, se ascoltavate prima, cioè se ascoltavate il programma precedente, la radio ha raggiunto uno dei punti di bassezza più profonda con l'Accademia della Brusca, che ha proposto una puntata sulle parolacce e forse ne faranno altre. Quindi vergogna nera per Radio Wombat, ma ovviamente sto scherzando perché è uno dei programmi forse il più geniale del palinsesto, ma ci sono comunque tanti altri programmini per voi, un po' di tutti i generi, da La fuga del gatto di Classica o Uru sulla la musica africana, Tonight Alive con delle puntate clamorose di live o retrospettive su gruppi e scenari elettronici, ma anche altro, ma soprattutto basato su quello. Coccole al silicio, Fuoco alle polveri, programma contenitore con interviste, recensioni, musica e chiacchiere varie. Slick Chicks, Cicca, tutte le volte lo sbaglio, ci metto l'S in più, con puntate a tema, sempre con qualcosa, e Bloody Mary riesce sempre a trovare una particolarità e un filo conduttore nella trasmissione. E tante poi radiogiornali anche, e comunque ci sono in cantiere nuove trasmissioni, per cui ancora il palinsesto online deve essere aggiornato, ma a brevissimo ci sarà roba nuova e potrete goderne e usufruirne, ecco. Abbiamo finito un po' la cosa su una musica anni 90 dance che aveva a che fare anche un po' col metal o con l'industrial, e metto ora un pezzo di chi ha creato anche un po' l'acid house inaspettatamente, gli Psy TV, che ho messo tante volte, varie volte. Un gruppo storico che ha avuto tre fasi. La prima fase appunto sul post industrial, visto che c'erano due membri dei Throbbing Gristle, che erano le basi proprio dell'industrial music. E la terza fase che è prevalentemente rock psichedelico, un po' freak, e la seconda fase, che è questa quella in questione, che era proprio elettronica e acid house praticamente, che sono stati tra i pionieri di una musica che poi via via è cresciuta. Allora vi metto un pezzo che esemplifica un po' il loro operato anche in questo genere, o anche come creatori del genere. Il pezzo è dell'88, Psychic TV, Joy. We'll be right back. così come gli Psychic TV venivano dalle esperienze industrial, anche un altro gruppo inglese dei sobborghi di Londra era partito con l'industrial, per poi continuare il loro percorso facendo roba attinente alla techno e alla trance. Loro sono i Test Department, conosciuti anche come Test Debt, di alta carica politica, tra l'altro. Il pezzo che vi metto è proprio tratto dal disco un po' della svolta, che è diventato proprio un vero manifesto della musica techno-trance, che si chiama Totally, che venne pubblicato dalla KK Records. Il brano si chiama Vozza Moia Vozza, Come Spirit Come, e il disco è del 95. Da qui secondo me sono partite un sacco di sonorità che siamo abituati ormai a sentire, ma che in realtà non conosciamo. Thank you. avete bisogno di serate così a Firenze, chiedetelo, scrivetelo su postawombat@insiberia.net, scrivetelo al messenger di Facebook di Radio Wombat o pubblicizzatelo su Twitter di Radio Wombat Fi. Non ce la facciamo più, vogliamo sentire questa musica. E forse vi soddisfaceremo, giusto? Soddisferemo, madonna. Che botta, forse ad ascoltare sta roba. E adesso Psychic Warrior of Gaia. C'entrano qualcosa con tutto quanto? Sì, perché era un altro gruppo pubblicato dalla KK Records. Sì, perché sono olandesi di Tilburg e loro facevano deep techno, trance, ambient, tutto ciò che manda fuori di testa. E l'identità era un po' misconosciuta, si sapeva che facevano parte del Tempio della Gioventù Psichica, quindi erano collegati appunto agli Psychic TV. Loro sono gli Psychic Warrior of Gaia. Il pezzo si chiama Challenge Calamix e lo trovate in radio solo su 8 Hz grazie a Radio Wombat. Nessuno, dico nessuno, li mette in radio, attenzione. Faccio l'ultimo brecchettino perché questo fine settimana è ricco di belle cose e quasi tutte al Next Emerson, che se non ci fosse l'Emerson a Firenze sarebbe un gran mortorio. E comunque, venerdì c'è il compleanno della svolta Sound System, che fanno ben 11 anni di Sound System Culture. E tra l'altro inaugurano il nuovo impianto, che a quanto pare è con una preamplificazione valvolare, quindi il suono sarà più caldo, più potente e più vero. E oltre a loro ci sono anche i Tropic Disco Sound System di Milano. Sabato 14, sempre all'Emerson, per il compleanno, visto che anche il venerdì iniziano a festeggiare il compleanno, è un lungo compleanno che andrà avanti fino a tutto il mese, perché sono degli sboroni. Quindi il 13 inizia il compleanno, il 14 con la svolta, il 14 sabato ci sono i Polemiche, che è il gruppo, il nuovo gruppo della batterista di Sabot più qualcun altro che non so perché sono ignorante, i White Room di Massa, che fanno i New Wave, e i Cora di Firenze, che sono insomma conosciuti tra la folla qua della pancaggine, arcoraggine, marciaggine varia. Alla Polveriera invece, dalle 19:30 alle 23, c'è il Poetry Slam con aperitivo. Il lunedì, perché anche il lunedì a sto giro c'è qualcosa, allo spazio Yam, alle cure, c'è Genealogy, la scienza delle donne, ovvero una cosa che riguarda il nuovo movimento delle donne e la nuova università. Altro non so, ma valeva la pena di ricordarvelo. E adesso gli ultimi due pezzoni, uno più spesso di un altro. Quello che vi metto ora è un pezzo degli Orbital, che sono conosciutissimi, famosissimi. Tra l'altro erano molto partecipativi con Greenpeace, andavano in prima linea con i motoscafi a fermare chi insomma uccideva le balene e altre specie che dovevano essere protette. E hanno fatto anche un disco o un paio di dischi, non mi ricordo quali, con l'uso solamente dell'energia dei pannelli solari, per cui proprio per lasciare questo volendo messaggio, anche se il messaggio è brutto, perché come diceva un professore di cinema che purtroppo non c'è più, che è il Gariba, il messaggio si butta in mare dentro una bottiglia, ecco. Comunque per lasciare questo senso di pulizia anche nella musica, di ecologia, il pezzo si chiama Satan. È una versione live di Glastonbury del 2004, quindi sforiamo per un attimo nel pezzo, comunque degli anni 90, per cui ci sta. E proprio a Glastonbury suonarono nel 94 e fu uno show, a quanto pare, perché non c'ero, epico e leggendario. Qui ascoltatevi Satan, che è uno dei pezzi preferiti degli Orbital, e godetene dal vivo. Dal vivo su 8 Hz, perché sta andando in diretta, ma anche dal vivo perché è eseguito proprio in questo festival a Glastonbury. Yes, son. Glastonbury. Well, son, a funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her... Thank you. gli Orbital su 8 Hz qui stasera dal vivo. No, scherzo, era un brano tratto da un live loro a Glastonbury del 2004. Perché gli Orbital erano così famosi e innovativi negli anni? Perché i loro live set, che erano la forza maggiore, erano suonati interamente dal vivo, ovvero non è che mettevano i dischi o avevano la base, prendevano play e stop e col fader cambiavano brano, ma proprio avevano una serie di sequencer e synth con i quali suonavano e facevano dance piuttosto che fare musica sperimentale da un punto di vista più ricercato a livello ideologico, insomma. Allora proprio vi faccio ballare, ma ve la suono tutta, ecco, per cui questa era la cosa importante. 8 Hz vi lascia con l'ultimo brano di un altro gruppo altrettanto famosissimo, che sono i New Order, che tutti conoscete per Blue Monday, ma Blue Monday ci ha scassato il cazzo, visto che nella trasmissione precedente è stato usato 8.000 volte, quindi abbiamo sdoganato la parola cazzo su Radio Wombat, per cui c'è tutta una cultura dietro, per cui si può usare. E il pezzo è un remix, Pump Panel Reconstruction Mix, addirittura, insomma, la prendono molto sulla pomposità. Un remix di Confusion del 98 e uscì proprio nella colonna sonora di Blade, il film quello tamarro su vampiri con Wesley Snipes, sì, con la S, che ha avuto ben altri due film a seguito, quindi una trilogia sui vampiri. I vampiri erano carini, erano fatti bene, e è proprio della scena che sono tutti a ballare in discoteca, belli stracotti, inizia a grondare sangue e i vampiri iniziano a mordere le persone fortunate o sfortunate che siano. Comunque, viva gli anni 90, 8 Hz Radio Wombat, alla prossima. Yeah. We'll be right back. Corrado.